avait des yeux d'opale qui me fascinaient, il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un fameux bail, ça fait déjà un fameux bail. Questa mattina colmeremo l'appendice che ci mancava rispetto a una discussione che facemmo una settimana fa assieme a Pierluca Pucci Poppi. Buongiorno. Buongiorno. Autore del libro Gheddafi, ascesa e caduta di un oppositore globale, a Liberty Edizioni. Io dissi una settimana fa a Pierluca, il tuo libro ha alcune pagine in bianco perché manca l'appendice, la parte finale. Beh, oggi lo completiamo. Il corpo senza vita del Reis viene trascinato e preso a calci per le vie polverose di Sirte, la città natale dove aveva trovato il suo ultimo rifugio. Sono la conferma della fine dell'ultra quarantennale regime che ha oppresso la Libia, la fine ufficiale della guerra che ha insanguinato il paese per 8 mesi. Il CNT si è affrettato a confermare la morte di Gheddafi, così anche gran parte dell'Occidente, mentre almeno nei primi momenti Washington ha scelto un profilo cauto, premettendo sempre il se. Sì, perché se solo 24 ore fa si fosse chiesto a qualunque analista o anche a qualsiasi libico se il colonnello si trovava davvero a Sirte, la risposta sarebbe stata possibile, ma non probabile, perché Sirte è un cul-de-sac, circondata da truppe del CNT e con unico sbocco il mare, quindi senza vie di fuga. Come se non bastasse, nota la presenza di molti sosia del Reis che spesso l'hanno rimpiazzato nelle occasioni pubbliche, solo il DNA potrebbe fugare le incertezze. Io penso che la giornata di ieri, ma hanno detto tutti, è una di quelle date che saranno ricordate, che fra qualche anno andranno gli studenti a cercarla sulla Wikipedia di allora, di quello che sarà il sostituto, sarà l'evoluzione di Wikipedia, per vedere cos'è accaduto quel giorno. Ma non tanto per la vicenda politica, per la vicenda di carattere internazionale che dà senz'altro importanza a quel giorno, non tanto per le infinite ambiguità a livello locale che ricoprono di ulteriori significati quel giorno, del dittatore che prima era un amico, prima era un personaggio chiave, prima era un alleato importante e esattamente a distanza di un anno diventa una benedizione del cielo il fatto che qualcuno l'abbia ammazzato. No, questa giornata rimarrà impressa per una serie di immagini. Io questa mattina, oltre ad approfondire ulteriormente, aggiornare il racconto della giornata di ieri e le infinite diramazioni di pensiero che possono essere attribuite a questa giornata, vorrei riflettere principalmente, partendo appunto come ispirazione, dall'iconografia della morte di un tiranno. Oggi molti giornali hanno contrapposto tutta una serie di tiranni morti delle ultime generazioni, a partire da Piazzale Loreto ad arrivare fino a Saddam Hussein. Poco si è visto della morte di Bin Laden, di Osama Bin Laden, anche perché probabilmente era il più spaventoso, il più terribile, il più declamato dai media e quello di cui si è visto meno nel momento della morte. No, su Gheddafi si è visto abbastanza, si è visto molto, anche se con alcuni vuoti. Nella morte di Gheddafi sono intervenuti due grandi fattori: innanzitutto l'uso esasperato e centrale della protesi di ripresa individuale, quindi del videotelefonino. Le immagini che vediamo su tutti i giornali di Gheddafi morente o morto o ancora non si sa bene, comunque nella fase ultima del suo percorso umano, vengono dagli scatti di un fotografo che a sua volta ha fotografato il monitor di un telefonino di un guerrigliero, di un combattente, che o è lui che l'ha ucciso o è riuscito a fare l'ultimo filmato della fine estrema del dittatore. Oggi molte prime pagine dei giornali hanno una foto che normalmente attribuita ad altre persone in altre circostanze non sarebbe mai stata pubblicata, il volto maciullato del dittatore. Quando il dittatore muore per mano della folla, sempre il volto maciullato. Da Piazzale Loreto in poi sappiamo che il dittatore, quando diventa ostaggio della folla nel suo ultimo momento, si inveisce sul volto, si deturpa il volto, si distrugge il volto. In altri casi, quando la persona importante o la persona socialmente pericolosa cade in mano a forze organizzate ufficiali, come nel caso di Che Guevara, non è proprio un paragone che calza tantissimo, ma dal punto di vista iconografico è perfetta. C'è un'immagine sul Corriere della Sera che Gheddafi steso sul lettino, che è nella stessa identica posizione in cui fu messo dall'esercito antiguerriglia boliviano nel 67 Ernesto Che Guevara. era una rappresentazione fatta per la stampa. Lo misero, lo lavarono, lo rivestirono, lo acconciarono per farlo fotografare e perché passasse alla storia la foto di quel cadavere. La stessa cosa è accaduta in questa foto che vedo di Gheddafi, steso su una barella nella stessa identica posizione, con qualcosa che ricorda anche nell'acconciatura, nei capelli, nella barba, nella posizione del corpo Che Guevara. È a pagina 6 del Corriere della Sera di oggi, primo piano. Però in questo caso non sono i fotografi che lo fotografano, oppure il fotografo c'è ma non è, è fuori dell'inquadratura. È colui che riprende questa folla di libici che a loro volta fotografano con i telefonini il cadavere del loro tiranno, di quello che hanno ucciso, di quello che passeranno alla storia attraverso la foto della sua morte. È interessante vedere che anche in questo caso la foto della ripresa ufficiale del fotografo dei giornali, dei telegiornali, che riprende la scena, quindi la fa passare alla storia, fa passare anche alla storia che in questa epoca ogni essere umano è dotato di una propria appendice personale per immagazzinare quel brandello di storia, e quindi gli appartiene come una reliquia. Si vede infatti questa foto riprodotto, il cadavere di Gheddafi steso nella foto, anche il monitor dei tanti telefonini che riprendono a loro volta il cadavere. Beh, su questa riflessione vorrei oggi portarvi. 800240024. Sì, è stato ammazzato, è morto, è finito Gheddafi. Un'epoca finisce, un'altra ne comincerà. Ma riflettiamo un attimo cosa accade nell'epoca della nostra civiltà, di quella che stiamo attraversando, quando muore un dittatore e quando è necessario che la storia abbia le prove concrete dell'uccisione di questo dittatore. Sic transit gloria mundi. Chi ieri era un amico e un ospite gradito, uno al quale si baciava la mano, oggi viene mostrato al mondo cadavere, sangue e ferite, come un trofeo della peggiore tribù di cannibali. Viene calpestato. Lo spettacolo non è nuovo, a Saddam hanno anche infilato arnesi in gola nelle orecchie per umiliarlo meglio, prima di mandare in onda l'impiccagione, Allah Akbar, ha detto lui, colpo di fune, tonfo e il tiranno è morto, in diretta. Le foto dei figli massacrati le avevamo già viste, per Bin Laden strategia opposta, ugualmente violenta. Per Nemesi il suo corpo è scomparso, sepolto in mare. Se l'avessi fatto io, tu, voi, si chiamerebbe soppressione di cadavere. Ben Ali è scappato e gente che era stata a casa sua poco prima a godersi le vacanze, politici francesi di rango, hanno tirato le pietre, tante pietre. Mubarak l'hanno portato in barella al processo, zoom delle telecamere. Questo è un servizio di ieri di Sky TG24 che fa l'elenco, elenca i tanti morti e i tanti cadaveri dei dittatori o dei personaggi considerati globalmente pericolosi. Comunque sono stati tutti esposti perché la prova del cadavere del cattivo, fra virgolette, morto ucciso, serve a confortare, elaborare comunque e dare motivo di gioia alle persone che gli sopravvivono e che da cui ricomincerà comunque una svolta della storia. Prima di chiamare in causa proprio sulla figura di Gheddafi, per Luca Pucci Poppi, che ha scritto un libro e questa mattina su lui analizzeremo proprio il fenomeno Gheddafi, vorrei chiamare al telefono il professor Giovanni Fiorentino. Professore, buongiorno. Buongiorno Gianluca. Io so che hai pochissimo tempo, che hai lasciato i tuoi studenti, quindi ti faccio subito intervenire. Ricordo che Giovanni Fiorentino è docente di sociologia della comunicazione all'Università della Tuscia. Tra i suoi libri ha scritto L'occhio che uccide, La fotografia e la guerra, L'immaginario, Torture, Errori, edizioni Emeltemi, di cui abbiamo parlato in questa trasmissione. Hai dato tu anche un'occhiata a queste foto di Gheddafi ucciso e ti è venuta qualche riflessione da fare? Assolutamente sì, insomma devo dire che condivido in larga parte ciò che dicevi. Da una parte c'è l'esigenza immediata di trasferire testimonianze, eppure le stesse immagini che testimoniano trasferisco immediatamente una sensazione di dubbio o di perplessità, nel senso che ho visto che nella maggior parte dei siti, dei giornali italiani, vengono pubblicate queste immagini con un sarebbero le prime foto, insomma, evidentemente le ultime esperienze, gli ultimi anni e la riproposta di queste immagini dal punto di vista digitale ci invita immediatamente a essere un pochettino più prudenti. Si attribuiscono a France Press, per quanto, come dicevi, immediatamente emerge questa dimensione digitale. Allora si tratta di immagini che sono poco definite, immagini che sono rubate probabilmente a dei video fonini e quindi a dei video piuttosto che a degli scatti precisi fotografici, e che immediatamente rimangono e rimandano a dimensioni diverse. Si perde il senso della foto ufficiale. Io ho citato Che Guevara perché di Che Guevara abbiamo le foto ufficiali, quelle in cui era stato creato il teatrino, era stato fotografato e sono state trasmesse queste. Qua c'è un'infinità di foto che non sono quelle ufficiali, anzi le cosiddette foto ufficiali sono la riproduzione delle foto ufficiose, di quelle rubate con il telefonino. E qui immediatamente mi fai venire in mente che da una parte si rimanda a dimensioni della cultura e della tradizione della storia fotografica, dall'altra parte è una dimensione che implica una partecipazione attiva, è come da una parte avessimo bisogno di catturare, possedere, rappresentare, elaborare simbolicamente, e questo evidentemente con la rappresentazione del corpo del capo immediatamente fa il pari con la rappresentazione della morte o addirittura della distruzione violenta del corpo del capo. Dall'altra parte immediatamente questa dimensione orizzontale, digitale, di immagini poco ufficiali, molto sporche, che rimandano per esempio a una rappresentazione palpa, se volessimo potremmo pensare a tutt'altro tipo di rappresentazione espressiva e quindi a un'arte palpo, insomma, che riproduce costantemente. Sai, io ho citato uno al termine di reliquia digitale, che magari valeva per le foto dei papi prese col telefonino, in questo caso è il trofeo di guerra, è il guerriero che si impossessa di parte del corpo del nemico e possedendolo ne assume anche le caratteristiche. In questo caso portarsi a casa la foto sul telefonino del cadavere del tiranno ucciso, penso che sia una sorta di trofeo individuale per ognuno delle persone che ha fatto questo tipo di operazione. Pierluca Puccipoppi, qual è la tua riflessione invece su quello che stiamo noi in questo momento vedendo e osservando e analizzando? L'iconografia del cadavere del tiranno ucciso. C'è anche un fatto interessante, è che fra le prime immagini, quelle di Gheddafi vivo e sanguinante, catturato dai miliziani, e le foto del Gheddafi morto, passano 4 ore. E non si sa che cosa sia successo in quelle 4 ore, cioè si sa, è morto, ma non sembrava tanto male in arnese dalle prime immagini. Era vivo, camminava, appunto, si lamentava, aveva il sangue in bocca, ma era vivo. È stato probabilmente fatto fuori a freddo, il che è perfettamente comprensibile, data la composizione e la natura del Consiglio Nazionale Transitorio, cioè del governo provvisorio dei ribelli. Sono tutti ex gerarchi di Gheddafi. Ahmed Jibril, il presidente, è stato ministro della giustizia di Gheddafi, è l'uomo che condannò a morte le famose infermiere bulgare, il famoso caso delle infermiere bulgare, poi furono liberate dall'intervento di Nicolas Sarkozy appena eletto. Ali Tarouni, ministro del petrolio, era un gerarca del regime, il primo ministro ad interim, Mahmoud Jibril, era un gerarca del regime, così come il capo delle forze armate Haftar. Ora, ogni dittatore sa che i suoi carnefici saranno i suoi fedelissimi, certo. Questo è immancabile. Certamente, ma però c'è una differenza, si è molto parlato del caso di Saddam Hussein che è stato acchiappato in Iraq dopo qualche mese, adesso se Gheddafi è stato preso prima, ben inteso. Ma anche lui in una specie di cunicolo fognatura. Sì, questo è il parallelo. È sintomatico che questi dittatori finiscono, anche se poi su Gheddafi hanno tutti detto è morto da beduino, è morto da combattente, sì. E poi analizzeremo anche la maniera. Poi sono finiti come topi chiusi dentro delle fogne. È vero, è vero. Beh, nel caso di Saddam è diverso, perché Saddam è stato preso in un Iraq in gran parte desaddamizzato, per usare un brutto termine. Non so se ricordi il famoso mazzo di carte degli americani, certo, con i ricercati. Erano tutti i gerarchi del regime ritratti su quelle carte. Beh, se un mezzo di carte simile esistesse in Libia oggi, sarebbe il Consiglio Nazionale Transitorio. Quindi tutte le carte dei pericolosi in realtà sono quelle che oggi hanno preso il testimone del potere. Sì, e va anche bene così, perché gli uomini della ribellione che non sono ex regime sono anche più preoccupanti. Come il Tripoli oggi è un feudo praticamente semi-indipendente sotto un governatore militare, tale Belhaj, che era un uomo che aveva contatti con Bin Laden, addestrato in Afghanistan, è forse più preoccupante lui, e questa è una delle fratture, la frattura religiosa nel CNT, fra i laici alla tunisina, i notabili dell'ex regime, e gli islamisti. Fiorentino, prima di lasciarti, Giovanni Fiorentino, a tornare ai tuoi studenti, che non vogliamo creare delle ferite troppo gravi nel loro corso. La fotografia, mi scrive Fabrizio Intonti, in realtà dalle origini serviva a immortalare le persone, veniva fotografata una persona perché dopo morto ne rimanesse traccia. Ecco, questo compito di immortalare un evento importante di cui Puccipoppi Pucci Poppi ci ha spiegato gli aspetti ambigui. In realtà quelli che l'hanno ammazzato e che oggi ne portano in giro il cadavere erano i suoi più fedeli sudditi ed esecutori. In questo caso però c'è una sorta di mandato popolare, quasi partecipativo, quasi 2.0. L'immortalamento del tiranno viene fatto attraverso una sorta di partecipazione popolare. Ognuno ha la sua immaginetta che è immortale al tiranno morto. Io sono, come dicevo prima, d'accordo con te, e tutto questo confligge anche con una costruzione della fotografia nell'immaginario collettivo del Novecento. Appunto, il paragone con Che Guevara mi sembra estremamente pertinente, e qui siamo di fronte ad immagini che probabilmente faranno breccia in maniera diversa nell'immaginario. Sicuramente non siamo di fronte a uno scatto costruito simbolicamente, retoricamente e artificialmente, ma siamo di fronte appunto a immagini spappolate che si riproducono e che si moltiplicano in maniera indiscriminata, mettendo in dubbio se stesse, moltiplicandosi, perché evidentemente gli scatti sono tanti e si succedono. Cioè, talmente ridotto male che si creerà subito la voce tipica dei sosia, dei possibili sosia, che già ci fu per tutti i precedenti dittatori, più o meno anche di Hitler si diceva che fosse un sosia. Sentiamo un attimo Margherita. Margherita, buongiorno. Sì. Buona giornata a voi. Spettacoli come quelli a cui abbiamo assistito personalmente non fanno che rendermi più triste e mi fanno riprovare quel sentimento di vergogna che ancora oggi, che ho 74 anni e pur non avendo nessuna responsabilità diretta, io provo ripensando ai fatti di Mussolini, a come è stato esposto il cadavere, eccetera eccetera. È una sconfitta della civiltà, è una sconfitta. Io sono un'umanista convinta, avrei voluto per tutti questi dittatori un processo fatto con le debite forme, perché così la storia avrebbe avuto il giusto documento. In questo modo si mistifica la storia, la si maschera, ne si fa un maquillage, come del resto si fa proprio anche sul cadavere, e questo mi rende molto triste e mi rende molto vergognosa proprio. Francamente io provo una forma di disperazione, tra virgolette, nella fiducia che si potrebbe nutrire per la liberazione della Libia. Questa non è una manifestazione di democrazia, purtroppo, o anche desiderio di democrazia. Ancora una volta, probabilmente tra qualche ventennio staremo di nuovo a discutere sul prossimo. Non sarà Margherita che la natura umana in realtà ha degli aspetti che sono insopprimibili, che fanno parte proprio del nostro essere umani, in cui attraverso certe dinamiche la folla si muove in questa maniera. Qui stiamo parlando senza nessun senso di discriminazione di guerriglieri beduini, non stiamo parlando di civilizzati signori travei italiani degli anni 40 come accadde, quasi 50 come accadde a Piazzale Loreto, e già questo dovrebbe farci riflettere sul fatto qui sono persone che dal punto di vista, diciamo, del considerare la dignità di una persona, il rapporto vita e morte, hanno ancora delle visioni molto arcaiche rispetto alle nostre. Per loro uccidere era una cosa totalmente normale, in più stavano combattendo. Mi fa più pensare quello che accadde a Piazzale Loreto, che erano persone che bene o male erano come noi, avevano la stessa educazione, avevano mangiato e si erano nutriti di cultura esattamente come noi. 800 24 00 24, ci fermiamo un istante per dare la linea alle informazioni della borsa. Saluto il professor Fiorentino, riprenderò con Pierluca Pucci Poppi fra un istante a parlare appunto della fine del tiranno, dell'iconografia appunto della morte del tiranno. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets, et puis elle chantait avec une voix. 800 24 00 24, questa mattina parliamo dell'evento del giorno, dell'uccisione del leader libico Gheddafi, ma lo facciamo facendo un'analisi di tutte le iconografie della morte del tiranno, perché è interessante vedere le analogie, vedere le contrapposizioni e vedere, come diceva un'ascoltatrice poco fa, ancora memore di Piazzale Loreto, quanto poi la natura umana in queste circostanze mostra sempre la stessa faccia, a qualunque latitudine si presenti l'occasione, di un dittatore ucciso dalla folla che fino a poco prima lo aveva osannato. Sentiamo due telefonate velocemente. Andrea, buongiorno. Eh, sì, Sì, buongiorno. Senta, Nicoletti, io appunto volevo dire la mia in relazione a quello che ha detto la signora Margherita, mi pare, poi anche la sua risposta. Io vedo che, insomma, anche a me piacerebbe tanto, ma credo a chiunque piacerebbe tanto che si conclude una dittatura, si prendono questi responsabili, si fa un processo, Norimberga magari, ecco, in questo senso è stato l'ideale, però insomma a me non sorprende neanche Piazza Lo Loreto, addirittura non sorprende anche quei partigiani che insomma alla fine della guerra sono andati a stanare i vari responsabili e li hanno fatti finire. Guardi, a me non sorprenderebbe di vedere il professor Chiappini e Intonti all'uscita di questa commissione prendermi a pendermi a una scala e aprirmi come un maiale. La natura umana è così, lo sappiamo, ne abbiamo mille. Pensiamo quello è stata la guerra nella ex Jugoslavia. Persone normali come noi scendevano in piazza e cercavano il vicino per tagliargli la gola. Ecco, appunto, cioè se a me fosse capitato che mi avessero stuprato la sorella, mi avessero ammazzato il papà, mi avessero ammazzato dei compagni di lotta sulle montagne, insomma è chiaro che io accumulo tanto di quel rancore, di quella bestialità, per cui lei ha citato situazioni estreme, basta molto meno, le assicuro, ci sono state vendette trasversali in occasione di guerre civili che noi abbiamo ben conosciuto per motivi molto più futili, veramente anche la semplice invidia di una persona che ha qualcosa più di te. Stefano, buongiorno. Ah, buongiorno, io volevo intervenire anch'io su questa questione, innanzitutto precisando che violenza di massa attuata da un dittatore, che sia africano o europeo, non si può improvvisamente dimenticare e lasciare spazio al pietismo finale dello strazio del corpo. Qua non ha detto, non è pietismo, è un'osservazione. Noi parliamo di iconografia, analizziamo l'iconografia, non diciamo ha fatto bene, male, Dio mio, che orrore. D'accordo, però non dimentichiamoci le centinaia di migliaia di vittime che stanno dietro questo fotogramma. Sì, ma nessuno dimentica. Ho detto hanno fatto male a far quello, sono molto più asettico di lei in questa lettura. Faccio l'analisi dell'iconografia. Sì, osservo, sì, sì, no, come osservo, ma... come uno potrebbe osservare degli insetti in una gabbietta, in una scatolina, sì, quello che fanno gli uomini in queste occasioni, non prendo posizione. È come un esorcismo, però ad esempio Mussolini e gli altri gerarchi sono stati esposti a Piazzale Loreto, dove sono stati fucilati e lasciati alle intemperie per diverso tempo 30 partigiani. Sì. Cari, tutto quello che è avvenuto dietro Mussolini. Sì, ma guardi, ripeto, lei guardi, non è che sto attaccando, giustificando o inorridendo. L'orrore fa parte di un'altra dimensione. In questo momento sto analizzando le iconografie. È logico, qualcuno che esaspera le persone non può che aspettarsi questo tipo di reazione. Noi stiamo osservando come si comportano gli esseri umani in questa occasione. Persone che fino probabilmente a poco tempo prima sono stati fra gli adepti più fedeli del tiranno, sono probabilmente i primi, i più efferrati, i più fantasiosi nel compiere lo scempio del corpo del tiranno. Pierluca Pucci Poppi, ricordo, autore del libro Gheddafi, mai un libro fu scritto in maniera più tempestiva, Ascesa e caduta di un oppositore globale, a Liberty Edizioni. Andiamo avanti in questa analisi, riprendiamo il punto da Gheddafi, sì, e poi andiamo a ritroso. Alcuni punti salienti. Tu questa mattina hai sentito i notiziari stranieri, hai già saputo ci sarà un sacrificio collettivo di cammelli. E questo ha detto l'inviato di France 24 in Libia, appena tornato dalla Libia, diceva si preparano grandi sacrifici di cammelli per festeggiare Gheddafi. Non so cosa c'entrino i poveri cammelli, ma questo ho sentito questa mattina. Una ritualità beduina cruenta che noi non conosciamo fino in fondo, in cui sì, come noi scanniamo capretti e maiali per, sì, festeggiare, loro uccidono i cammelli. Molti giornali hanno scritto è morto davvero beduino, davvero combattente. Tu cosa hai da dire in proposito? Beh sì, lui è stato sempre nel bene e nel male un combattente, è uno che non ha mai mollato. Ti ricordo che in 42 anni di regime lui ha subito fra i 40 e i 50 tentativi di colpo di stato, sollevazione militare, assassinio, quindi in media una volta all'anno hanno cercato di farlo fuori. Ha sempre, e si è salvato perché? Perché ha sempre reagito molto efficacemente e anche grazie al suo onnipresente apparato repressivo. Non è mai sembrato il tipo da scappare, da rifugiarsi, si diceva in Niger, in Algeria, in Zimbabwe, da Mugabe o da Chavez in Venezuela, né da arrendersi. È morto, come ha sempre detto, peraltro, lui diceva, non ci arrenderemo mai, non siamo mica donne. anche diciamo la fine, il fatto che sia stato dentro il tubo della fogna, sì, era semplicemente in un combattimento, un corpo a corpo, è stato colpito il suo mezzo, è sceso per difendersi nel miglior appostamento possibile. Esattamente, e tra l'altro questo è interessante perché il suo mezzo è stato colpito da aerei francesi e da un drone, cioè un aereo senza pilota americano. Sono stati dei Mirage francesi, lo ha dichiarato oggi il ministro della difesa francese Gérard Longhi. Quindi la sua colonna di automezzi era sotto bombardamento, e cosa si fa sotto bombardamento? Si esce dai veicoli e ci si mette a rifugio. Sotto un ponte o sotto una tubatura, cavalcavia, cioè. Un piccolo dettaglio, a rigor di logica, l'attacco che ha fermato la colonna di Gheddafi non era autorizzato dalla risoluzione 1973 delle Nazioni Unite, che impone la no-fly zone e permette i bombardamenti per proteggere la popolazione civile. Lì non c'era popolazione civile, a meno che non stessero per mettere sotto pensiero, qualcuno dell'entourage stretto di Gheddafi lo ha tradito e ha detto guardate sta in quel camion, quindi hanno operato in maniera immediata. Probabilmente sì, avevano sicuramente la soffiata, non c'è dubbio, non credo che vadano a bombardare macchine sulle strade libiche che e sono anche poche. Il mezzo diciamo dei combattenti era mirato, sapeva che lì c'era Gheddafi. Sì, sì, infatti l'hanno pizzicato praticamente subito. La pistola d'oro, andiamo nei simboli, nei simboli forti. La pistola d'oro è l'ultimo orpello di tutto quell'insieme di divise, paramenti, ori, rappresentazioni. Sarà potrebbe detto l'ultimo suo rimasuglio di potere era la pistola d'oro. Sì, che ricorda un po' James Bond, no? Ti ricordi? Scaramanga, l'uomo della pistola d'oro. Sì, la pistola poi la vecchia d'oro... arma rispetto al modello e tutto, sì. Non è che sia un'arma, è un'arma del 1901, mi sembra addirittura rinnovata, capito? Però è abbastanza emblematica del leggendario cattivo gusto di Muammar Gheddafi. È brutto parlare dei morti in questa maniera, ma certamente non si può. Le sue uniformi in stile sovietico-sudamericano erano indifendibili e le disegnava lui. Con l'aiuto di sarti europei, sembrerebbe, erano pezzi unici, vorrei dire, erano anche un po' ridicole le uniformi dei golpisti sudamericani, no? Ricordi quegli ammiragli con le uniformi bianchi plurimedagliati, però quelle erano l'uniforme dell'ammiraglio della marina cilena o del generale argentino, queste no, non sono le uniformi dell'esercito libico. Era roba fatta in casa. È il paradosso che questa pistola d'oro è diventato il simbolo del ragazzo, gli avrebbe sparato alla tempia. Sì, in queste quattro ore di cui dopo dobbiamo entrare più nel merito. Maurizio fa una domanda molto interessante. Maurizio. Sì, buongiorno. Io volevo dire questo. Visto che hanno la forza NATO che è intervenuta, ha fatto 30, poteva fare 31, nel senso che hanno individuato il convoglio con Gheddafi. L'hanno bombardato, potevano intervenire, magari sì, non con lo stesso parere. Lo hanno preso vivo a tutti gli effetti. Per catturarlo, e in effetti non si parla oggi di una cosa vista di una persona così massacrata. Probabilmente averlo vivo e fare un processo era scomodo a qualcuno, sarà fantasia la mia, non lo so. Ma sentiamo Pierluca Puccipoppi, che sia stato preso vivo è innegabile, perché la prima parte del video siede lui che cammina con le sue gambe. È stato preso vivo, poi c'è un intervallo di 3 o 4 ore e si ritrova morto. Ha ragione l'ascoltatore quando dice che un processo sarebbe stato molto imbarazzante. Ricordi quando il processo a Saddam, quando Saddam Hussein entra in aula, il giudice gli dice, l'imputato dica il suo nome, quello si alza e dice, io sono Saddam Hussein, il presidente dell'Iraq, tu chi sei? Perché ha cambiato tutto. Ecco, Gheddafi, immaginiamoci in un processo, non avrebbe detto tu chi sei, avrebbe detto io so chi sei tu, chi ti ha messo lì? È stato io ero l'amico di tutti i governanti li europei. Li ha piazzati lui. Il CNT erano rane trasformate in principi da lui. Voglio dire, non, in questo caso, processarlo. E questo si racconta quello che sa. Per 42 anni è stato il dominus assoluto di quel paese, del regime. Tutte le strutture del regime sono state messe in piedi da lui. Immaginarsi un processo, ma no, che non gli conviene. Cesare. Ah, pronto? Sono in linea? Sì, certo. Senti, io naturalmente non vorrei essere andato fuori tema o andare fuori tema, ma in realtà le immagini sono immagini che poi evocano in noi sentimenti, passioni, reazioni. Ora questa tematica è fatta anche di, se vogliamo, immagini mentali, ricordi. Queste cose di cui parlate o parliamo, a me evoca molto Omero e lo scempio del carattere. Del cadavere di Ettore fatto da Achille, no? Che lo trascina. Ecco, però, e poi lo riconsegna finalmente al vecchio padre. E qui è il bello, no, che Omero ci descrive i due sentimenti, no? Quello della rabbia, quello dell'odio, quello, però ci consegna anche il sentimento reciproco della pietas, se vogliamo, da parte di Priamo, che esce dalle mura di nascosto e va di nascosto a trovare Achille, e Achille, invece di considerarlo un nemico da uccidere, gli consegna il cadavere. Beh, per com'è il rituale di elaborazione della vittoria e di annichilimento del nemico era stato compiuto, quindi è giusto cedere appunto anche alla pietas. Non mi sembra ci siano immagini di pietas in queste rappresentazioni iconografiche moderne, perché i guerriglieri che fotografano con il loro telefonino il cadavere del tiranno guardano anche verso l'obiettivo del fotografo ufficiale, che li immortala in questo momento del loro personale vituperio digitale. Quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Melog 2.0. Elle avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets. 800 24 0024, stiamo parlando dell'iconografia della morte del dittatore, partendo naturalmente dallo spunto enorme che ci dà l'attualità, con le immagini della morte di Gheddafi, ucciso una giornata ieri. Sto parlando con Pierluca Puccipoppi, ricordo autore del libro Gheddafi, ascesa e caduta di un oppositore globale, a Liberty Edizioni. Facciamo una rassegna, Pierluca, prima ci interrompano ancora, sì, gli ascoltatori, sull'attualità, come è giusto. Piazzale Loreto ne abbiamo parlato abbastanza, sì. Il Duce, Claretta Petacci, Pavolini appesi per i piedi, oscenamente oltraggiati dalla folla. Ma andiamo avanti, ci sono altre immagini che oggi il Corriere della Sera ci mostra, ma sì, è un'iconografia normale. In Liberia cosa accade quando viene ucciso il dittatore della Liberia? Samuel Doe, quello dal punto di vista dell'iconografia è abbastanza forte, perché ci fu un video, fu filmato, gli oppositori che lo presero, lo catturarono vivo, lo torturarono per ore e filmarono il tutto. Gli tagliarono le orecchie, gli fecero di tutto. Gli tagliarono le orecchie, è piuttosto insostenibile la visione di quella roba, ne ho visti dei pezzi. Fu registrato in videocassetta e venduto in tutta l'Africa occidentale, dove divenne un blockbuster. Insomma, anche lì la foto ufficiale, ci sono tre guerriglieri che guardano l'obiettivo del fotografo, sì, con i fucili puntati sul cadavere gonfio, fatto a pezzi, sì, messo sul lettino. Sì, lui era vestito solo con un piccolo slip e loro lo tagliuzzavano con coltelli per ore e ore. Non immaginiamo il resto. Nicolae Ceaușescu, ucciso, fucilato, composto, l'immagine ufficiale, sì, su un cuscino con il suo vestito, doppio petto, con la cravatta, è stato fucilato come accade nelle migliori occasioni, salvando il volto e mirando al petto. Ecco, ma qui la fine dei coniugi Ceaușescu è assai simile da questo punto di vista a quella. La signora fece un po' pena, anche se era una carogna, perché era una carogna terribile, una vecchietta, però fucilata, non è bello, sì, vedere. Lei disse anche: figli miei, ma che fate? Io sono la vostra madre, sono, sì, una madre dei romeni, e non sono stati a sentire. Però perché è simile a quello di Gheddafi? Perché Ceaușescu viene ucciso, viene fucilato dopo un processo farsa durato pochi minuti, da chi? Dai gerarchi del regime, che vanno ad immolare il capo espiatorio per poter perpetuare il loro potere, come poi è stato. E la stessa cosa è successa con Muammar Gheddafi. Ultimo in ordine cronologico, Saddam Hussein, anche questo un video fatto con un telefonino, ma immediatamente, sì, diffuso, perché ormai, sì, la tecnica di dire il video preso casuale, come video amatoriali nella fantomatica scenario dei film porno, video amatoriale in realtà è fatto professionalmente, è attrezzato per essere amatoriale perché ha più il senso di aver colto una realtà, sì, del suo scorrere. Ecco, qui un'impiccagione ufficiale, impiccato col cappotto, poi una cosa molto singolare. È morto anche con grande dignità. Certo, non era una mammoletta Saddam Hussein, quindi però non si sa mai davanti alla morte come un uomo possa reagire. È morto con dignità ed è stato subito filmato. Una cosa abbastanza raccapricciante nelle fotografie del Gheddafi morto sono, come dicevi prima, queste persone intorno a lui che sorridono e che si filmano loro stesse con il telefonino vicino al cadavere. Ora, Quello che hanno detto gli ascoltatori è vero. Mussolini a Piazzale Loreto, che fu definito da un giornalista inglese una macelleria messicana, un giornalista inglese lì presente, Mussolini aveva avuto tutte le colpe, anche Gheddafi. Ovviamente è difficile simpatizzare con il colonnello, e il mio libro non è certo simpatizzante nei suoi confronti. La Petacci non aveva ucciso nessuno, di essere l'innamorata del duce. Assolutamente. Ma persino con una carognaccia, scusa, come Gheddafi, io trovo tutto questo abbastanza disgustoso, fa schifo. Lo scempio di un cadavere fa sempre schifo, di chiunque sia, di Hitler, di Satana. È una cosa degna. Che ancora dall'epica omerica a oggi, quando una persona nota viene uccisa e una folla ha qualcosa da rimproverare a questa persona, la folla fa scempio di quel cadavere. Qualunque epoca sia, qualunque circostanza sia, in qualunque luogo questo possa accadere. Non è detto che questo sia bello per forza. Assolutamente, non è bello per niente, è schifoso. Johnny, buongiorno. Buongiorno, chiamo da Reganati. Abbassa la voce, se no saturi il microfono. Prego. Allora, chiamo da Reganati, sono un cittadino albanese, da 13 anni che sto in Italia. Sì. Allora, sentivo sto fatto di Gheddafi che l'hanno sparato, l'hanno ammazzato, no? Uh-huh. Per me, posso essere troppo duro con la parola, l'hanno fatto bene che l'hanno ammazzato. Io ho visto ieri la situazione. Nessuno ha detto il contrario, guardi, che nemmeno. Scusa, anche il Presidente della Repubblica ha detto comincia una nuova era, mica ha detto che brutto l'hanno ammazzato. Faccio il paragone con la situazione mia in Albania, 97. Sì. Io sono stato dai parte dei ribelli, no? Sì. A Valona. Quando Berisha, dittatore, Berisha, perché è un dittatore. Certo. Allora è venuto, voleva spararci con gli aerei, che due aerei MiG-21 si sono atterrati a Lecce. Che non voleva sparare su popolazione. Allora, la situazione era che la mediazione europea, troica. Sì, vai al punto, non ci fa la storia, perché sennò è complicato. Il punto è questo: l'hanno fatto bene che l'hanno passato, perché sennò tornava dopo 10 anni come Sali Berisha in potere, adesso che ce l'abbiamo ancora sto dittatore. Ecco, il punto è noi ribelli, tutto qua, non per dire ribelli che eravamo da parte del popolo, siamo in emigrazione perché non possiamo tornare là. Perché sì, ma Berisha mi fa notare, per Luca Pucciopi era stato eletto, l'hanno eletto gli altri. Però sappiamo che coi trucchi che già sta facendo anche adesso, sia a Tirana, sia di qua, sia di là, con mano messo, con la mano suo, piglia il potere, i voti, da là li butta di qua. Non. Quindi Johnny, lei come guerrigliero è pentito di non averlo ucciso allora? Se mi trovavo in quei momenti, adesso posso anche dire, però se mi trovavo in quei momenti lo potevo anche farlo, perché l'avrebbe fatto tranquillamente. Ci ha ammazzato 2000 persone solo a Valona, la dittatura sua. Grazie Johnny. Per Luca Puccipoppi, rispetto a questo ascoltatore guerrigliero che si è trovato in una situazione concreta, vedi come è singolare quanto questi mondi che sembrano così lontani collimino. Una persona si è trovata nelle condizioni di poter uccidere di sua mano un dittatore, ci chiama tranquillamente al telefono di questa trasmissione come qualsiasi altro essere umano civilizzato, quindi siamo tutti contaminabili da questa sorta di furia. Ma lo dicevano molti soldati che hanno vissuto le esperienze di guerra, soprattutto la seconda guerra mondiale. Cioè, io la prima volta che ho sparato direttamente a qualcuno mi sono sentito male, la seconda è andata bene e dopo mi sono anche divertito. E persino degli aguzzini, dei torturatori, raccontavano di cose simili. Cioè, erano rari gli uomini che non sopportavano questo stato di cose. Purtroppo sembra che sia piuttosto comune. Non scorderò mai il neuropsichiatra criminologo Vittorino Andreoli, quando, parlandomi appunto del delitto Maso e di altri simili, lui dice: è scavalcare la prima volta. L'essere umano, quando prova l'effetto titanico di uccidere un altro essere umano, non torna più indietro. Non ho mai trovato un serial killer pentito, mi ha detto. Mai interrogato, intervistato, analizzato un serial killer che si fosse pentito. È così. Io mi ricordo delle piloti tedeschi della seconda guerra mondiale che dicevano: noi mitragliavamo i civili in Polonia, ad esempio, all'inizio mi sentivo un po' male, ma dopo le risate, era divertentissimo, mi dispiaceva solo per i cavalli. Grazie per Luca Puccipoppi, ricordo autore del libro su Gheddafi e Liberty Edizioni, che trovate questi giorni in libreria, e ci sentiamo lunedì. Tous les deux enlacés.